trattato. Serata come sei tu, occhi chiusi come Magù. Freddo dai glu, per tirarmi su ci vuole una gru. Mi alzo da sto divano con andamento stile zombie. Attento tutto come tombi, su un soggetto arrotondo rombi. Lasciamo stare sta testa che cozza, serata zozza. Zero mammut col vermouth, meglio qua che birrozza. Mi voglio imbriacare, attitudine Jason Rader. E vabbè già, fammi altri sei Alabama Slammer. Summer time, troppo room, sonic boom. Camminerei mascherato in stile Danger Doom. Ci metto altre voi Ceres come interludio. E domani dall'ospedale mi faccio lasciare in studio. Becco il solito freestyle, mo fondo lo sure. Posso farlo, quanto è vero che tu non sei Shakur. Quanto è vero che stanotte non me la ricorderò. Ma mi gioco tutto al bancone, tipo sit and go. Stato idilliaco, sguardo da maniaco. Stato idilliaco, sguardo da maniaco. Stato idilliaco, sguardo da maniaco. Pensiero magnifico, dammi un come etilico. Stato idilliaco, sguardo da maniaco. Stato idilliaco, sguardo da maniaco. Stato idilliaco, sguardo da maniaco. Pensiero magnifico, dammi un come etilico. Mi guardi incuriosito e non hai capito. Un cuore nero, per questo sono al sesto black mojito. Il cervello intorpidito, il fegato rinsecchito. Ma se vuoi offrirmi un ciupito sarei esaudito. Mi stanno tutti sul cazzo come chi scrive LOL, come chi impazzisce per un gol, chi ignora il sol. Chi ascolta rock and roll e parla di Biggie Small, vi prenderei a pugni manco fossi Paul. Ma non è Tekken, è un trip da Super Tenants. Visioni immense, liceo te l'invenza. Cammino a testa in giù a mo' di circenze. Nella mia testa idee e cazzate tremende. Passi sicuri sul tappeto c'è un beat dropper. Compongo più lettere di Dracula, di Bram Stoker. Dritto dalla città dove vige il suono acra, mentre mi faccio disegni esagerati tipo mangaka. Stato idilliaco, sguardo da maniaco. Stato idilliaco, sguardo da maniaco. Stato idilliaco, sguardo da maniaco. Pensiero magnifico, dammi un come etilico. Stato idilliaco, sguardo da maniaco. Stato idilliaco, sguardo da maniaco. Stato idilliaco, sguardo da maniaco. Pensiero magnifico, dammi un come etilico. Continuo a girare, faccio il cool. Metto le ali senza Red Bull. Mi viene la voce arrecciata tipo Ja Rule. Se vuoi manda a fanculo me sta song. Ma vedrai tutti i significati del termine wrong. Ne arriva un tizio che si sente preso in causa. Quanto meno, più meno, meno. Cazzo, pare una menopausa. No, perché c'è rotto il cazzo. Che problemi hai? Parli di ste cose che non sai. So che tua mamma fa dati fry. Oh, ma che dici? Mia mamma è una santa. Veramente so che ce l'ha tanta e sta sempre a 90. Oh, mamma rutta minchia. Mettici il ciclato. Cerchi la rissa, ringhiero filo drogato. Sei tu che ti sei avvicinato. Due schiaffi, vengono i puffi e la folla si disperde. Io vengo trattenuto da ste due merda. Mi danno la colpa solo perché ero lì quel venerdì. Ma noi abbiamo chiesto, però ha detto di sì. Ah, ho detto così. Stato idilliaco, sguardo da maniaco. Stato idilliaco, sguardo da maniaco. Stato idilliaco, sguardo da maniaco. Pensiero magnifico, dammi un come etilico. Stato idilliaco, sguardo da maniaco. Stato idilliaco, sguardo da maniaco. Stato idilliaco, sguardo da maniaco. Pensiero magnifico, dammi un come etilico. Allora Rotondi, pigliamo una secca di vinta e ne tagliamo un po' di vino. Spero che sia buono. Ti voglio stare. Tu apprezzi la sincerità? Sembri fattissimo. Facciamo. Grazie. Sei fatto come un copertone. Che bella. Allora, registrata. Sembri fattissimo. Ho comprato una donna. Una versione italiana. Dove è stata la ricetta?